Yeah. Entro nel libro come in un edificio pubblico, ma senza porte, solo pagine che respirano. E mi chiedono il documento d'identità linguistica. Io rispondo con un accento che non ho scelto, che è un bagaglio a mano che pesa più del previsto. Scibolette è un codice d'accesso. Ma qui non serve per escludere, serve per capire chi parla. Quando il parlare è già un ostacolo, autistici, migranti, voci che non stanno nel formato wave che la società considera normale. La pubblicazione non è un prodotto, è un gesto sociale che si traveste da libro. È un laboratorio che si piega su se stesso per insegnarti che imparare una lingua non è solo memorizzare parole, ma costruire un luogo dove poterle dire senza chiedere il permesso. Le immagini non evocano, rappresentano. Sono fotografie che non vogliono essere poesia, ma prove materiali che il mondo esiste anche quando non lo guardi. Sono strumenti ottici per chi non ha voce, per chi la voce ce l'ha ma non viene decodificata, per chi parla in frequenze che il mainstream non riceve. Scibolette è un catalogo di progetti su pagina, ma la pagina è un campo di battaglia educativo. Ogni libro è un dispositivo politico che ti chiede: che ruolo ha l'artista? E tu rispondi con un silenzio imbarazzato, perché non sai se sei autore, lettore o solo un passante che ha sbagliato corridoio. La dicotomia è voluta, pratica sociale, oggetto concettuale. È come se ti dicessero: questo libro ti insegna a parlare, ma intanto ti osserva mentre lo fai e tu ti senti un po' studente, un po' operaio del linguaggio, un po' migrante dentro la tua stessa grammatica. Qui l'immagine diventa verbo, la pubblicazione diventa lavoro e il lavoro diventa linguaggio. È un ciclo produttivo che non produce merci ma possibilità, spazi nuovi dove vedere e parlare coincidono, dove l'arte smette di essere decorazione e diventa infrastruttura sociale. Scibolette non ti dà risposte, ti dà strumenti e tu li usi male, poi meglio, poi diversamente, finché non capisci che l'autodeterminazione non è un concetto astratto ma un libro che ti guarda e ti dice: adesso tocca a te.